2024 di Enrico Pagliarini. Puntata del 15 maggio 2010. Benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024, scritto in cifra, @radio24.it. Come sempre vi ricordo che la nostra puntata sarà disponibile sul nostro sito internet. Vi ricordo che il modo più facile e semplice è scaricare il tutto attraverso il servizio podcast, cliccando nella parte dedicata appunto al podcast sul sito www.radio24.it. In questo modo la nostra puntata sarà disponibile poco dopo la messa in onda, quindi entro al massimo le 18.30 del sabato, ma di solito i nostri tecnici sono molto veloci, per questo li ringraziamo. Abbiamo alcune notizie per iniziare la nostra puntata, poi parleremo di digitale terrestre con alcune considerazioni interessanti. Ad esempio, parleremo della difficoltà di videoregistrazione, cioè mano a mano che le trasmissioni diventano digitali e si passa al digitale terrestre, beh, sarà un po' più complicato videoregistrare. Perché? Ne parliamo più tardi. Iniziamo con una notizia che arriva da Microsoft, che ha lanciato questa settimana in tutto il mondo Office 2010, la suite da ufficio che contiene alcuni tra i programmi più utilizzati al mondo e anche più noti al mondo, come ad esempio Word o Excel oppure PowerPoint. Il lancio è avvenuto in 60 mercati, in 38 diverse versioni e 26 lingue, naturalmente compreso l'italiano. La nuova versione di Office è disponibile al momento solo per il settore business e sarà in vendita al pubblico a partire dalla metà di giugno. Quindi ci sarà sicuramente occasione per riparlarne in modo più approfondito. Abbiamo detto che Office è uno dei programmi più diffusi e questo grazie o a causa della pirateria molto elevata in tutto il mondo. Siamo ad un livello globale che cresce al 43%, questa è una media mondiale. Office è sicuramente uno dei programmi più copiati, soprattutto in paesi come l'Italia. Secondo l'ultima ricerca di Business Software Alliance, la BSA, l'organizzazione globale dei produttori di software che combatte la pirateria, in Italia nel 2009 l'installazione di software commerciale privo di regolare licenza, quindi piratato, è cresciuta dell'1%, dal 48% del 2008 al 49%. Un dato che ci posiziona fra i peggiori stati del mondo, naturalmente tra i paesi evoluti, insomma siamo tra i peggiori. Direi che siamo addirittura fuori classifica, perché secondo questo rapporto la classifica arriva al 29esimo, dopo tutto il resto è fuori classifica. I migliori sono gli Stati Uniti, che hanno un tasso di pirateria tra i più bassi, cioè il più basso in assoluto, al 20%, il Giappone e il Lussemburgo al 21%, la Nuova Zelanda, l'Australia, siamo al 25% in Australia, così come in Austria, Belgio, Finlandia, Svezia, eccetera, eccetera. Insomma, noi ci confrontiamo con paesi come il Regno Unito, che è al 27%, la Francia è al 40%, noi siamo al 49%. Certo, c'è anche chi fa peggio, perché pensate che la Georgia è lo stato peggiore al mondo, il 95% del software commerciale è piratato, 95 su 100. Lo Zimbabwe siamo al 92%, poi tra questi paesi c'è ad esempio l'Iraq all'85%, l'Algeria all'84%, la Nigeria all'83%, questi naturalmente sono i peggiori al mondo. Parliamo di ebook, questa è la settimana del Salone del Libro, lo sentite anche durante la programmazione di Radio 24, siamo la radio ufficiale che trasmette anche molte trasmissioni in diretta dal Salone del Libro. Una notizia che riguarda gli ebook, di cui abbiamo parlato molto e sicuramente riparleremo. Feltrinelli, Messaggerie Italiane con GEMS e RCS Libri hanno dato il via al progetto comune Editoria Digitale Italiana, la prima piattaforma digitale italiana dedicata esclusivamente alla distribuzione degli ebook. i primi titoli saranno disponibili verso la fine dell'anno. Anche Mondadori avrà una propria offerta in autunno, in questo caso stiamo parlando di ebook intesi come software, cioè libri da leggere, non come strumenti. Questi sono naturalmente editori e quindi fanno libri e pubblicano libri. La novità è la creazione di piattaforme comune per la pubblicazione dei libri digitali. Secondo gli ultimi dati, la quota di mercato degli ebook negli Stati Uniti, sicuramente il paese più evoluto, è attualmente inferiore al 2%, quindi poco significativa, ma secondo le previsioni crescerà fino al 15-20% entro i prossimi 5 anni, al 2015. In Italia la quota sarà inferiore, stiamo parlando di una quota del 4-5%, quindi rimarrà ancora bassa. A proposito di numeri, abbiamo altri numeri che ci danno alcuni segnali di come vanno le cose per quanto riguarda gli smartphone negli Stati Uniti, mercato che però per quanto riguarda gli smartphone sta diventando il mercato di riferimento. Allora, gli smartphone con sistema operativo Android venduti negli Stati Uniti hanno superato le vendite di iPhone e il sistema operativo di Google diventa così il secondo più venduto in America nel primo trimestre 2010, stiamo parlando di questi tre mesi. Al primo posto rimane saldamente Research in Motion, cioè il produttore del BlackBerry, con una quota di mercato del 36%. Android ha il 28%, mentre la Apple è al 21%. Stiamo parlando del solo primo trimestre dell'anno, del solo mercato degli Stati Uniti e del solo segmento degli smartphone. Certo però che Android che supera iPhone è un segnale interessante. Sapete che ci sono molti produttori che offrono come piattaforma, come sistema operativo Android, quindi Android gode anche di una di un bouquet, di una differenza di prezzi molto elevata. Insomma, ci sono smartphone che costano poche centinaia di dollari e invece l'iPhone è un prodotto che si differenzia molto poco, in attesa dell'iPhone 4G che dovrebbe arrivare in giugno. Dicevo che oggi vogliamo parlare di digitale terrestre perché la prossima settimana c'è una scadenza importante che riguarda la Lombardia, quindi più di 9 milioni di persone, ma non solo, parliamo di più di 10 milioni perché assieme alla Lombardia questa scadenza riguarda anche parte dell'Emilia-Romagna, parte del Piemonte e poi per i prossimi mesi ci sono scadenze che riguardano un po' tutta la pianura padana. Ne parliamo con Gianfranco Giardini, nostro esperto di audio e video digitale. Gianfranco, bentornato a 2024. Grazie mille, bentrovati a tutti gli ascoltatori. Gianfranco Giardini, lo ricordiamo, guida il magazine online dday.it. Voi state parlando molto di digitale terrestre, a maggior ragione in questo fine settimana, perché martedì prossimo inizia la cosiddetta fase di switchover, parola inglese un po' difficile da tradurre, potremmo dire spegnimento di passaggio? L'inizio dello spegnimento, cioè la parte proprio di passaggio verso la sola emissione digitale. In cosa consiste? Semplicemente assisteremo, come è già successo in altre parti d'Italia, allo spegnimento di due canali inizialmente, di quelli diciamo nazionali, cioè Rete 4 e Rai 2, che non verranno più trasmessi in tecnica analogica, ma trasmessi soltanto in tecnica digitale. E contestualmente, quindi da martedì prossimo, le stesse frequenze utilizzate prima per questi due canali verranno immediatamente riutilizzate per dei bouquet digitali. Ricordiamo che sul digitale terrestre, dove ci stava una frequenza e quindi un canale solo analogico, possono essere ospitati 4, 5, anche 6 canali digitali terrestri. Cioè, e dipende quindi dalla qualità con cui poi si vedono questi canali. Come classico della tecnologia digitale, se possono comprimere i dati, più comprimo, più perdo qualità, però chiaramente aumento la capienza della mia frequenza, posso mettere più programmi, più canali. Allora, questo switchover e poi il passaggio completo al digitale terrestre per la Lombardia, per buona parte della pianura padana, è importante. Allora, diciamo subito che si concluderà tutta questa fase anche per il resto della pianura padana entro quest'anno, giusto? Sì, tutto il nord Italia praticamente verrà coperto dal digitale terrestre entro la fine del 2010. E non parliamo solo di switchover, ma proprio anche di switch off, quindi di spegnimento completo delle trasmissioni analogiche con anche il Triveneto e l'intera Emilia Romagna. Quindi un passaggio importante perché la popolazione coinvolta è molta. Tra poco facciamo anche, diamo giusto per avere un'idea, un paio di percentuali. Ci risentiamo tra un minuto. Stiamo parlando dello spegnimento di alcune frequenze, cioè quelle di Rai 2 e Rete 4 per la prossima settimana, da martedì il cosiddetto switch over, in attesa dello spegnimento totale, cioè lo switch off, e stiamo parlando di un'area che riguarda la Lombardia, parte del Piemonte e parte dell'Emilia Romagna, ma nei prossimi mesi lo spegnimento, cioè diciamo entro quest'anno, lo spegnimento dei segnali analogici, della TV analogica, riguarderà una popolazione molto importante, direi tutta la pianura padana e in generale, Gianfranco, alla conclusione di questo processo, cioè diciamo alla fine di quest'anno, si passa da una percentuale che è di... Adesso sono un terzo circa, che sono aree all digital, quindi circa il 33%, si passerà a più di due terzi, quindi intorno al 68%, quindi vuol dire travalicare la famosa soglia della metà della maggioranza, andare ben oltre, quindi a fine 2010 la stragrande maggioranza degli italiani riceverà i segnali televisivi terrestri solo in tecnica digitale. Quindi per questo non solo questa data, ma le prossime che seguiremo nel corso di quest'anno sono importanti. Il calendario prossimo è sicuramente interessante per chi abita in queste zone, ma tra poco vorremmo dire cose che invece riguardano un po' tutti. Chi passerà al digitale entro quest'altro anno, perché c'è chi dice che tutto verrà velocizzato e quindi non si passerà al digitale terrestre in tutta Italia entro il 2012, ma entro il 2011, giusto Gianfranco? Sì, perché si è visto l'esperienza soprattutto diciamo del Lazio e di altre regioni importanti come il Piemonte occidentale, che il passaggio al digitale, al solo digitale, sì, è faticoso, laborioso, ma non impossibile, anzi si è rivelato forse tutto sommato più facile di quello che si pensasse, e quindi tirare troppo in lungo questa transizione vuol dire anche bloccare il passaggio a determinati vantaggi che il digitale terrestre dà, quindi per esempio trasmettere tutto, tutte le trasmissioni in 16 noni, cosa che col digitale terrestre è molto semplice, l'analogico invece è molto più complicato. Quindi trasmissioni che si adattano a tutte le nuove TV. Anche vecchio, ormai sono diciamo 15 certo. anni che ci sono i TV in formato 16 noni. Senti, nella fase di passaggio ci sono tra l'altro dei cartelloni pubblicitari che ci ricordano che non è necessario comprare una nuova TV, basta il decoder. Però il tuo consiglio è bene acquistare il decoder oppure meglio comprare una TV? Beh, forse diciamo, è sicuramente meglio comprare una TV nuova per vari motivi, però diciamo è sufficiente oggettivamente acquistare un decoder? Poi parliamo anche di quale decoder, perché ce n'è una lista lunghissima. Ce ne sono tanti, sì. I vantaggi del decoder sono molto, molto semplici anche da capire. Costa molto molto meno di un TV nuovo e lascia, come dire, in vita un TV magari perfettamente funzionante e magari anche abbastanza attuale. I problemi che si creano sono ovviamente che ci vuole un apparecchio in più, quindi il posto proprio per appoggiare questa scatola. Poi gestire tutto, ahimè, con due telecomandi. Questo significa che il TV va acceso col telecomando del TV, si cambia canale col telecomando del decoder, ma si alza e si abbassa il volume, per esempio, con quello del TV. Quindi vuol dire comunque tenere due telecomandi in mano. Certo, non è che si può cambiare un TV magari semi nuovo soltanto per non avere questa piccola scomodità, però se magari il TV invece è datato, è vecchio, si vuole magari adeguarlo alle nuove tecnologie, per esempio gli schermi piatti più grandi, molto più grandi, anche a costi assolutamente accessibili cui sono arrivati oggi, Un TV integrato offre il vantaggio di essere una macchina digitale nativa e quindi di non avere un cavo di connessione analogico come succede con il decoder. Cioè noi oggi, se prendiamo un decoder, riceviamo la TV in digitale, poi il decoder la deve convertire in analogico, in analogico normalmente, questo succede con i decoder diciamo da 29-39 euro, in analogico il segnale va al TV dove viene riconvertito in digitale, spesso e volentieri se il TV è un pannello piatto sicuramente, quindi abbiamo questa doppia conversione con una perdita di qualità assolutamente inutile. Se il TV è digitale integrato e tutto il flusso dalla messa in onda, in molti casi sempre più dalla produzione del segnale fino alla messa in onda, la ricezione e poi la visualizzazione sul nostro TV, segue una filiera interamente digitale con un vantaggio qualitativo non indifferente. Senti, la chiavetta di Sky, cioè ricordiamo che per gli abbonati di Sky, che quindi hanno il decoder per ricevere i segnali di Sky, non è purtroppo sufficiente questo decoder per vedere i canali del digitale terrestre, perché in alcune situazioni, in alcuni casi, le varie Rai 1, Rai 2, eccetera, eccetera, che vengono effettivamente visualizzati sulle buche di Sky, criptano il segnale, quindi non li si può vedere. Poi aggiungiamo che sul digitale terrestre ci sono anche molti altri canali che non sono disponibili sulla piattaforma di Sky. Quindi esiste questa possibilità, cioè di questa chiavetta che va applicata al decoder di Sky e che quindi ci fa diventare questo decoder un decoder anche per il digitale terrestre. È utile oppure no? È utile per gli abbonati a Sky, sicuramente utile. Quindi da consigliare. Perché è di fatto un ricevitore, non è una chiavetta, è proprio un ricevitore digitale terrestre. Ma il vantaggio qual è? Che i canali digitali terrestri vengono integrati nella lista canali dei ricevitori di Sky. Quindi si vede Sky e il digitale terrestre con un solo telecomando. Parliamo di decoder e poi il telecomando chiaramente della TV. Quindi si semplifica la vita a chi vuole continuare a vedere Sky ma vuole anche accedere a tutta l'offerta del digitale terrestre, che non dimentichiamoci comprende anche l'offerta delle TV locali, che molte volte su satellite invece vengono poi perse. Sì, oppure sono al canale 800, 900, insomma... Sì, bisogna scoprirlo. Sì, esatto. Senti, l'acquisto di una nuova TV ci offre anche la possibilità di videoregistrare più facilmente i programmi. E qua apriamo il capitolo della videoregistrazione, di cui abbiamo parlato altre volte nel 2024, perché ci sono un sacco di persone, come giusto che sia, che videoregistrano i canali per riguardarli o in un secondo momento, oppure per tenerseli in archivio. Allora, purtroppo abbiamo detto che col digitale e con i nuovi bouquet di canali che stanno nascendo, le cose stanno cambiando un po', cioè saremo sicuramente meno liberi di videoregistrare così come accade oggi? Lo siamo già un po' meno liberi, perché una parte delle trasmissioni digitali non sono già oggi registrabili, ovvero hanno un sistema, come dire, di protezione che impedisce agli apparecchi videoregistratori di attivarsi su quella trasmissione, di attivarsi correttamente. E quindi questo crea evidentemente dei vincoli più o meno tollerabili. Va anche detto che sempre più stiamo andando verso le soluzioni proprietarie. Parlo per esempio per Sky, tutti gli utenti Sky sanno che l'unico modo ormai per videoregistrare efficacemente i programmi Sky è quello di avere un ricevitore MySky, perché gli altri sistemi sono spesso complicati e a volte non portano non vanno a buon fine. I TV che cosa offrono i nuovi TV? Tutte le linee, diciamo, dei migliori TV del 2010, quelli quindi al lancio in queste settimane, permettono la cosiddetta funzione PVR, quindi Personal Video Recorder. Che cosa significa? Che basta inserire una chiavetta USB nella porta USB, che ormai è disponibile su tutti i TV, da usare come supporto di memoria per registrare i programmi televisivi tipicamente del digitale terrestre, che vengono messe in onda. Il digitale terrestre dispone anche di una Electronic Programming Guide di base, quantomeno che permette di scegliere anche il programma da videoregistrare. Questo viene videoregistrato oppure semplicemente viene messo in pausa, una pausa virtuale. Ovviamente si incomincia a registrare quando lo metto in pausa, perché ho una commissione da svolgere e poi posso vederlo in un secondo tempo, posso ridare il play in un secondo tempo. Quindi questa funzione è molto utile, diciamo, per una quota parte importante delle esigenze di videoregistrazione. Non tutte, evidentemente, però essendo integrato nel TV e realizzandosi con una chiavetta, con una memoria USB da pochi euro, sicuramente una funzione che va messa nel bouquet delle scelte di quando si affronta l'acquisto di un TV nuovo. Se questa chiavetta la presta un mio amico? Se questa chiavetta la presta un amico, non è possibile visualizzare nulla. Cioè, il vincolo che i broadcaster hanno dato ai produttori di TV per permettere questa videoregistrazione è che ci sia un accoppiamento biunivoco tra la chiavetta e il TV, quindi una chiave, uno scambio di chiavi. Dovrei prestargli la TV, di crittaggio, la TV intera, perché quel contenuto registrato può essere visibile soltanto su quel TV. Senti, per la videoregistrazione, chiamiamola tradizionale, ad esempio, mia mamma registra molto con il videoregistratore VHS a cassette ancora dall'analogico. Che cosa succederà? Cioè, i videoregistratori nuovi che sono sul mercato possono videoregistrare tranquillamente? Posso poi darti un contenuto? Guarda, ti ho videoregistrato quel programma, te lo faccio vedere. Tecnicamente si può registrare tranquillamente, avrei forse qualche dubbio, perché l'unico modo per riutilizzare i vecchi videoregistratori è quello di accoppiare ad essi un decoder. Parlo di un decoder digitale terrestre, di quelli comuni, ma che venga dedicato a quel videoregistratore, quindi collegato al videoregistratore. Tanto per intenderci, se io devo fare una registrazione programmata, devo programmare l'orario di registrazione sul videoregistratore, ma il canale va scelto e selezionato, addirittura programmato sul decoder. Quindi un'operazione che aggiunge, al di là che aggiunge una nuova scatola, un nuovo telecomando e un po' di difficoltà in più, può andare bene per chi ha grande dimestichezza con la tecnologia. Non vorrei sottovalutare le capacità di tua mamma, ma probabilmente le mamme d'Italia qualche problema da questo punto di vista potrebbero incontrare. I nuovi videoregistratori invece integrano il decoder per il digitale terrestre? I nuovi videoregistratori, cioè quelli in commercio in questo momento in cui stiamo parlando, dovrebbero tutti integrare il decoder per il digitale terrestre, soprattutto se vengono venduti nelle zone di imminente switch off, quindi spegnimento delle frequenze analogiche. Purtroppo alla prova pratica vediamo ancora nei negozi sugli scaffali dei DVD recorder, perché per me sono DVD recorder con hard disk interno anche, ancora non compatibili. Quindi molta attenzione quando si va a comprare un videoregistratore oggi, deve essere tassativamente compatibile col digitale terrestre, cioè deve riportare sul frontale il logo DVB-T. Questo è l'unico indicatore che ci dà la certezza che sarà poi compatibile con il digitale terrestre, cosa che oramai è indispensabile, che vuol dire se non c'è questa compatibilità vuol dire non essere compatibile con le trasmissioni TV. Sì, ma ammesso che il videoregistratore sia compatibile, cioè sia capace di ricevere i canali del digitale terrestre, poi io posso registrare tutto quello che viene emesso, trasmesso, oppure no? Mi sembra di capire che non tutto. Beh, i canali free sicuramente sì. Sì, okay. I canali free sicuramente sì, sui canali a pagamento con un po' più di difficoltà. Ci sono dei vincoli un po' complessi anche tecnicamente da spiegare. Ci sono dei DVD recorder che hanno l'alloggiamento anche per la card, quindi possono permettere per esempio di inserire la card, per esempio di Mediaset Premium, per vedere questi canali, ma non necessariamente potrebbero essere tutti videoregistrabili. Quindi a maggior ragione non è sempre detto che io possa videoregistrare una cosa e poi passartela. No, a passarmela è sempre più complicato. Tutti i canali di videoregistrazione vanno verso la registrazione tipicamente personale, su una memoria interna, quindi su un hard disk o su una memoria interna, sempre meno su supporti e poi rimovibili. Dunque Gianfranco, ci fermiamo per qualche minuto, questo è 2024, vi aspettiamo tra poco. Potete seguire 2024 come sempre il sabato nel pomeriggio di Radio 24 tra le 16 e le 17, oppure anche online. Potete scaricare il file MP3 della nostra trasmissione attraverso il servizio podcast di Radio 24. Trovate tutte le informazioni su www.radio24.it. Cliccate sulla sezione podcast e lì, cliccando poi naturalmente su 2024, trovate i 5 file MP3 relativi alle nostre ultime 5 puntate. Naturalmente potete riascoltare tutte le nostre puntate anche in archivio, ma in quel caso non potete scaricarle, le dovete ascoltare così nel cosiddetto streaming. Invece se volete scaricare ogni settimana la nostra puntata, il servizio podcast è la scelta giusta. Potete anche scriverci una email se preferite, per qualsiasi motivo. 2024, quindi scritto in cifra, 2024, è radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, grazie anche ad Anita Panizza in redazione. Stiamo parlando di digitale terrestre, avete sentito queste cattive notizie sulla videoregistrazione, è con noi Gianfranco Giardina, responsabile del magazine online dday.it. Beh Gianfranco, potrei dire, insomma, sentite tutte queste notizie cattive sulle difficoltà di videoregistrazione, mi verrebbe dire peccato. No. Peccato, perché ormai ci eravamo abituati, eccetera, eccetera. Stiamo andando, comunque va detto, in generale verso una dematerializzazione dei supporti, per cui oggi videoregistriamo su un hard disk che sta in casa nostra, domani probabilmente la tendenza sarà quella di non videoregistrare più, semplicemente perché ogni programma che è andato in onda potrebbe essere disponibile, per esempio, per un accesso sulla rete e una visione non sul computer ma sul TV di casa. Sì, quindi addirittura anche la videoregistrazione, come accade forse per alcuni servizi, che ne so, di Fastweb o di Alice Home TV, cioè la registrazione viene fatta in remoto su, come direbbero gli esperti, in the cloud, nella rete internet. Sì, aggiungerei che addirittura viene fatta a prescindere, cioè viene tenuto l'archivio di tutto e qualsiasi cosa mi venga in mente di vedere, anche che è già andata in onda e anche che io non abbia, di cui non abbia programmato la registrazione, è comunque disponibile per un accesso, che potrà essere ovviamente anche condizionato a un pagamento piuttosto che ad altre verifiche, al pagamento del canone. Cioè, qui gli scenari dal punto di vista economico e poi del modello di business sono tutti molto possibili. Vari, certo. A proposito di rete internet, visto che l'abbiamo toccata, e a proposito di digitale terrestre, le due cose fino adesso sono rimaste separate, cioè un conto è il mondo internet e anche i servizi televisivi erogati via internet, che possono essere sostanzialmente di due tipi, o la IPTV, così si dice, oppure la web TV, che si vede direttamente sul web, ma dicevo questo era un mondo, il digitale terrestre è un mondo staccato da tutto ciò, comunque i punti di contatto sono molto pochi. Qualcuno ha tentato di unirli, per esempio ha proposto dei ricevitori, cosiddetti ricevitori che ti fa vedere tutte le forme di TV, mi viene in mente Telecom, sì. ce ne sono anche però altri, la stessa Fastweb, sì, che offre di fatto un doppio decoder, no? Nella stessa scatola, quindi una macchina che è in grado di accedere a internet e raccogliere dei flussi IPTV e contestualmente accede al digitale terrestre, un po' come fa Sky con la chiavetta, che accede sia al satellitare che al digitale terrestre con un box solo. Ma delle proposte ibride, diciamo, ibride, così, sì, no? Sì. Ecco, invece adesso mi sembra di capire che con il contestuale lancio di nuovi canali, perché questo passaggio della Lombardia e un po' di tutta la pianura padana nei prossimi mesi al digitale terrestre corrisponde anche al lancio di una serie di canali nuovi sul digitale terrestre. Ecco, assieme a nuovi canali stanno, mi sembra, arrivando anche nuove proposte che in qualche modo tirano in ballo internet. Sì, noi siamo abituati a vedere il decoder digitale terrestre, quelli che abbiamo comperato fino ad oggi, come delle macchine semplici, ovviamente, ma dal punto di vista della connettività assolutamente antiquate, perché il decoder digitale terrestre, quello interattivo MHP, tanto per intenderci, ha normalmente sul retro la presa del doppino telefonico e integra un modem, perché in teoria, e dico assolutamente in teoria perché poi non lo fa nessuno, per interagire con sistemi interattivi, il televoto più che altro e altre cose simili, bisognerebbe collegare alla linea telefonica analogica tradizionale il decoder, il quale per reagire a un nostro input, per esempio un televoto, fa una chiamata analogica con un modem verso un punto d'accesso. Sì, una roba accede, da medio wave. Una roba che ormai è superata da tantissimo. No? Che non ha fatto nessuno, insomma, in questi anni. Nessuno, pochissimi hanno collegato il decoder alla linea telefonica. In realtà un canale di ritorno è importantissimo, perché il broadcasting terrestre è monodirezionale, cioè l'antenna manda dei segnali TV a casa dell'utente, il quale non è in condizione di interagire in maniera particolare, e questo è un po', come dire, non è più al passo coi tempi, perché siamo abituati ormai con internet ad avere una grossa interazione. Per fortuna stanno arrivando i primi decoder che integrano in maniera strutturata una presa di rete all'interno, al loro interno, e possono collegarsi non più al doppino telefonico, ma precisamente a un router internet, e quindi andare su internet e accedere ai contenuti su internet. E quindi di fatto la scatola interattiva, il nostro decoder, riceve moltissimi dati in broadcasting, quindi tutti i canali televisivi eccetera eccetera, su quelli può fare poco, al di là eventualmente se c'è un hard disk interno di video registrarli o cose simili, però può anche accedere, può dare dei messaggi di ritorno via internet e anche ricevere dei flussi on demand, quindi su richiesta specifica, soltanto lui, non tutta la Lombardia o tutta l'Italia. Quindi in questo caso stanno nascendo i primi servizi, devo dire che i primi a lanciarlo è stata Telecom Italia Media con la 7, che ha creato questo canale, si chiama appunto la 7 On Demand. In realtà il canale non, a questo canale non corrisponde una vera messa in onda via etere, ma corrisponde a un'applicazione MHP che fa partire un'interfaccia e mi dà accesso all'intera library dell'ultima settimana delle produzioni di la 7. Quindi tutto quello che è andato in onda, ovviamente non i film, ma diciamo tutte le trasmissioni più importanti prodotte dalla 7. Io a questo punto posso decidere direttamente dal mio ricevitore di mandare in play una trasmissione di quelle passate. Ci avviciniamo un po' a questa videoregistrazione a prescindere, in cui accedo a qualsiasi proprio contenuto e lo posso vedere, lo posso mandare in pausa, lo posso fare, posso andare avanti veloce in qualità diciamo televisiva tradizionale, e questo senza avere un computer, senza avere necessità di sapere usare un computer, di accedere a un sito. Il ricevitore per il digitale terrestre collegato a internet, sì, ma per sapere qual è quello che va bene per questo tipo di servizi è stato fatto un bollino ad hoc, è il bollino gold o il bollino oro, secondo, se vogliamo essere anglofoni. Quanti o no. Bollini ci sono già adesso? 5. È già incomincia a essere complicato, che è anche compatibile con l'alta definizione, però questa compatibilità con l'alta definizione, diciamo, nel nostro, per quello che stiamo raccontando, è assolutamente collaterale, cioè non è indispensabile, ma quello che è indispensabile è che questi decoder col bollino gold abbiano a bordo già la presa di rete, la possibilità, la capacità di andare in internet. Quindi in questo modo, se uno sceglie oggi, che magari sta comprando il ricevitore, un ricevitore col bollino gold, o sceglie un TV con il bollino gold, anche che integra TV, questo decoder, certo. A questo punto questi tipi di apparecchi possono accedere oggi all'offerta di la 7, ma immagino in breve tempo, se questa piattaforma prenderà piede, all'offerta di un po' tutti i broadcaster, che cercheranno di offrire una sorta di rilancio dei propri programmi via internet, anche perché insieme al programma ripassa anche la pubblicità. Certo. Quindi è un modo per recuperare quell'audience che si è persa nella messa in onda in diretta per la navigazione internet, per YouTube, per tutto il resto. Senti, questo decoder riceve i canali solo via internet o anche via etere? Riceve tutti i canali del digitale terrestre normalmente, tradizionale, però, diciamo, normalmente in questa piattaforma on demand sono tutti erogati via internet. Sono tutti erogati via internet, perché io chiedo quella trasmissione a quell'ora e sono soltanto io in quel momento preciso. Chiarissimo. Allora ti faccio un'ultima domanda, poi ci salutiamo. Se invece di cominciare a parlare di digitale terrestre e di farci una testa così sul digitale terrestre in questi anni, la politica fosse stata più lungimirante, o forse avesse ascoltato alcuni tecnici che già 10 anni fa dicevano queste cose, avessimo investito sulla banda larga, ma dico in tutta Europa, non solo in Italia, avessimo oggi reti in banda larga abbastanza disponibili, non avremmo fatto prima a erogare tutto questo via internet? Punto interrogativo. Il mio parere personale è che non avremmo fatto prima. Il motivo è che la quantità di banda necessaria, se volessimo canalizzare su una rete IP tipicamente, tutto quello che stiamo vedendo su Sky in questo momento, tanto per dire la piattaforma a pagamento più utilizzata in Italia, più tutto quello che vediamo sul digitale terrestre, canali a pagamento compresi, probabilmente ci sarebbero sarebbe una banda non larga, larghissima o forse ancora di più. In più c'è il problema di, non so, pensiamo ai mondiali di calcio che arrivano adesso, gioca l'Italia, se tutto si collegano e sulla rete vogliono vedere tutti contemporaneamente la stessa trasmissione, utilizzare una distribuzione via rete è un modo molto inefficiente per distribuire in diretta lo stesso contenuto a tutta Italia. Allora, l'etere funziona ancora bene. È bella questa coabitazione tra etere e internet perché si ha il vantaggio del broadcasting tradizionale, quindi con lo stesso contenuto in diretta a tutti in maniera molto semplice e poco costosa, con i vantaggi della TV on demand e quindi della possibilità di vedere magari la trasmissione che è andata in onda ieri e che io ho perso. Risposta soddisfacente. Grazie Gianfranco Giardina, direttore del magazine online dday.it. Immagino che insomma parlerete questa settimana di switch over e anche di switch off. Assolutamente sì, cioè, abbiamo una serie di articoli anche che spiegano anche passo dopo passo per tutti e non soltanto per gli super specialisti come fare per esempio a collegare il decoder. Che non è sempre facile, anche perché ci sono 5 decoder, quindi dipende quale bollino dipende abbiamo scelto. Bene, grazie Gianfranco, buon lavoro, a presto. Grazie mille. E noi ripartiamo tra un minuto. Questa è l'ultima parte di 2024, adesso parliamo di servizi che probabilmente molti di voi hanno provato o almeno conoscono, cioè quei servizi che su internet ci permettono di visualizzare il suolo terrestre, ma non solo graficamente, ma proprio come una immagine. Il più famoso è Google Earth, quindi la terra di Google, ma ci sono servizi di mappe molto diversi su internet, sono servizi realizzati grazie a fotografie aeree o satellitari. Queste fotografie sono messe insieme da software particolari che ci fanno vedere l'immagine terrestre senza soluzioni di continuità. Ma al di là delle applicazioni gratuite, il mercato sta offrendo soluzioni molto interessanti per una miriade di nuovi utilizzi. Ne vogliamo parlare con Marcello Maranesi, che è amministratore delegato di eGeos, una società italiana che lavora proprio in questo settore. Benvenuto 2024. Grazie a voi, buongiorno. Possiamo definirlo questo un mercato nuovo o comunque che sta rinascendo in qualche modo? Ma sì, direi che stiamo vivendo una nuova fase, le attività sono cominciate già nella fine degli anni 70, per tutti gli anni 80-90 sono rimaste attività di carattere tecnico-scientifico, ricerca e sviluppo in sostanza. Nell'arco della prima decade, dal 2000 al 2010, c'è stata una crescita significativa con il miglioramento delle risoluzioni dei dati che sono scese a 50 centimetri per i satelliti ottici, a un metro per i satelliti radar. E diciamo che proprio in questi mesi stiamo vivendo un po' il cambiamento di fase verso servizi più di tipo operativo, l'allargamento della base del mercato e quindi anche a un arricchimento del portafoglio di prodotti e servizi che vengono offerti. Prodotti e servizi che vanno sia alle pubbliche amministrazioni centrali e locali, sia alle industrie, specialmente le grandi industrie, le società petrolifere o le società di trasporti che hanno grosse infrastrutture, società di distribuzione dell'energia, del gas o società per esempio RFI che gestisce tutta la rete ferroviaria italiana, quindi grandi industrie che hanno infrastrutture dislocate su tutto il territorio. Ci faccia capire quali sono gli attori di questo mercato, perché stiamo parlando di aziende che addirittura lanciano satelliti, non sempre sono aziende, soprattutto in America esistono proprio aziende private che lanciano satelliti per fotografare la Terra, in altri casi, in altri ambiti, è il caso ad esempio dell'Italia con Cosmo SkyMed, si tratta di una collaborazione pubblico-privata dove gli investimenti pubblici sono sicuramente importanti, ma quali sono gli attori principali di questo mercato? Ma diciamo che abbiamo nella cosiddetta catena del valore diversi attori, c'è chi costruisce satelliti e sono società molto tecnologiche, con capacità ingegneristiche di sviluppo di tecnologie hardware e software che vanno nel satellite in orbita. Poi abbiamo società che in qualche modo, come diceva lei, finanziano questi satelliti perché poi hanno un business plan per la rivendita dei dati a livello mondiale. quelle società che lo stanno facendo sono essenzialmente americane, perché hanno dei grossi contratti con la difesa americana che gli copre la maggior parte del rischio. Poi abbiamo tutta una serie di iniziative, in cui possiamo mettere anche quella dell'ASI, in cui i satelliti vengono finanziati da governi, come ha anche iniziato lo SPOT in Francia diversi anni fa, che fanno più o meno la stessa cosa, perché fanno costruire un satellite, lo mettono in orbita e lo operano. Poi c'è bisogno però di un altro gruppo, di un altro settore industriale, quelle società cosiddette a valore aggiunto, che a partire dai dati realizzano applicazioni per utenti non professionisti, non specialisti nell'estrazione dell'informazione dai dati satellitari, e qui entriamo nei campi tipo l'agricoltura, la protezione civile, la gestione delle infrastrutture, il monitoraggio ambientale, in cui non necessariamente il cliente è esperto nel trattare i dati, ma vanno forniti dei prodotti e delle applicazioni già molto customizzate verso l'utente. Quindi questi sono un po' i tre mondi, diciamo i tre settori industriali, e i players qui possiamo dire che sono internazionali per il primo gruppo, e l'Italia è forte soprattutto nella parte dei satelliti radar. Poi abbiamo le società che investono in questi satelliti, abbiamo detto sono americane per quel motivo che hanno contratto con il governo degli Stati Uniti, mentre nel settore ultimo, quello del valore aggiunto, abbiamo una partecipazione molto distribuita di società medie ma anche molto piccole, perché c'è bisogno anche di creatività e di rapporto con l'utente finale, e quindi è pagante la flessibilità, la rapidità e la vicinanza al cliente che anche piccole società possono sviluppare in maniera adeguata. Senta, fondamentalmente questo è un sistema che gira attorno a fotografie, che siano fatte con un'ottica da un satellite oppure da un radar, come il caso insomma dei satelliti che abbiamo citato, insomma italiani, però si tratta di fotografie, di mappe. Sì, essenzialmente si tratta di fotografie, però vorrei dire che il radar ha dei contenuti informativi meno belli da vedere, perché non è a colori e non è immediatamente intellegibile, però ha delle potenzialità maggiori, perché nella rivisitazione multitemporale, faccio un esempio, riesce a vedere se un palazzo si è mosso di 3 mm, se una frana si è mossa di 3 mm, se un ponte o una strada si sono abbassati di 3 mm. E quindi diciamo che ha dei contenuti informativi abbastanza diversi rispetto alle immagini ottiche, però sostanzialmente stiamo parlando di rilevamento sulla superficie terrestre. Senta, ci può fare alcuni esempi di soluzioni, servizi, o comunque ci faccio capire per che cosa vengono utilizzati i prodotti che voi rielaborate, le fotografie che voi rielaborate e mettete sul mercato? Ad esempio un utilizzo molto diciamo corrente al giorno d'oggi, che insieme sia le autorità governative sia quelle industriali coinvolte stiamo monitorando l'inquinamento della macchia di petrolio in Louisiana. Quindi per poter tenere sotto controllo una zona molto ampia e anche in condizioni di meteorologiche avverse, il radar come Cosmo ha un altissimo revisit, ha una risoluzione capace di rilevare i dettagli che sono necessari, e quindi c'è un servizio di monitoraggio che viene utilizzato dagli vari operatori per gli interventi che vengono condotti in questi giorni. Un altro utilizzo, ad esempio quello per l'agricoltura, per gli indennizzi dell'Unione Europea. Mentre prima si fotografavano i campi agricoli con gli aerei, con i sensori ottici nel periodo maggio, giugno, luglio, adesso siamo in grado anche nel periodo di ottobre, novembre, dicembre di monitorare l'aratura dei campi e quindi di sapere in anticipo rispetto alla stagione agricola quale potrebbe essere diciamo il volume del raccolto che si andrà a generare nell'arco di 5-6 mesi. Altre applicazioni sono anche quelle della gestione delle emergenze. Abbiamo operato su Haiti nel giro di pochissimi giorni per fornire mappe di valutazione dei danni e di utilizzabilità delle strade. Abbiamo lavorato con la Protezione Civile per il terremoto dell'Aquila, quindi direi che ci sono moltissime aree di applicazione che possono essere sfruttate, che vengono oggi sfruttate. L'ultima che mi viene in mente al momento è ad esempio con le società petrolifere facciamo anche rilevamenti di tipo geologico, perché il radar è in grado di rilevare meglio del satellite ottico le strutture geologiche e tettoniche della zona dove loro hanno interesse a trivellare. Senta, servizi come Google Earth oppure le mappe Google e altri servizi analoghi, simili su internet, hanno favorito il business del quale vi occupate anche voi, o in qualche modo anche sminuito il valore di questi prodotti, visto che questi servizi sono per lo più gratuiti su internet? Ma direi che ha avuto senz'altro un effetto positivo, perché innanzitutto ha fatto conoscere, diciamo, al grande pubblico, praticamente a tutti, la potenzialità dei dati satellitari. Poi che certi dati siano gratuiti ci ha forse tolto un piccolo business, ma che direi era un poco marginale. In qualche modo ha avuto un effetto benefico, perché ci ha anche costretti a migliorare il valore aggiunto che mettiamo sopra i dati, perché il cliente confronta quello che vede gratis su Google con quello che gli forniamo noi come prodotto professionale. Quindi è stato un utile stimolo verso di noi a creare prodotti con maggior valore aggiunto, e in questo senso, a valle di questo miglioramento del portafoglio prodotti professionali, possiamo senz'altro dire che l'effetto complessivo di Google è stato molto positivo. Bene, io la ringrazio Maranesi per essere stato con noi, buon lavoro, a presto. Arrivederci, grazie a voi. E così abbiamo concluso anche questa puntata di 2024, grazie come sempre per la vostra attenzione, grazie ad Anita Panizza in redazione. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, ci risentiamo la prossima settimana, non dimenticate che la nostra puntata sarà disponibile a breve anche sul nostro sito internet attraverso il servizio podcast, trovate il file mp3 della nostra trasmissione. Un buon ascolto con i nostri programmi e a risentirci. You are disconnected.